Azzalzala, il terremoto. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Quando la terra sarà agitata nel terremoto. Wa akhrajatil ardu athqalaha. La terra rigetterà i suoi fardelli. Wa qala l'insanu ma laha. E dirà all'uomo: cosa le succede? Yawma idhin tuhaddithu akhbaraha. In quel giorno racconterà le sue storie. Bi anna rabbaka awha laha. Giacché il tuo Signore gliele avrà ispirate. Yawma idhin yasdurun nasu ashtatan. In quel giorno gli uomini usciranno in gruppi affinché siano mostrate loro le loro opere. Chi avrà fatto anche solo il peso di un atomo di bene, lo vedrà. قَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. E chi avrà fatto anche solo il peso di un atomo di male, lo vedrà.